inverno ancora pioggia arriverà, nuvole che si accucciano sui tetti di città, strade di asfalto gelido e di foglie andate giù, oltre quei pini il mare ormai non si vede più, come un sogno lontano che all'alba già sbiadisce, non te lo ricordi mai, ti risvegli piano piano e torni a fare cose che non dicono chi sei, come un equilibrista sopra un filo che non c'è, cercare il senso è un esercizio che non fa per me, con le mani tese torno ad incontrare chi fa la mia stessa strada e ogni giorno va così, ciò che ti sembro conta molto più di quel che ho, dell'indirizzo dove ancora stanno appesi i sogni miei, ciò che ti sembro conta molto più di quel che so, so colorare le ombre negli sguardi dentro gli occhi tuoi, mentre sogno, sorrido, perché ad essere normale ho rinunciato già da un po', mi risveglio, sorrido, e torno a fare cose che mi dicono ci sei, come un equilibrista sopra un filo che non c'è, cercare un senso è l'esercizio che ora fa per me, con le mani tese torno ad incontrare chi fa la mia stessa strada e tutti i giorni andrà così. Ciò che ti sembro conta molto più di quel che ho, che all'alba già sbiadisce, non te lo ricordi mai, ti risvegli. Ciò che ti sembro conta molto più di quel che so, e torni a fare cose che ti dicono chi sei, come un sogno. Ciò che ti sembro conta molto più di quel che ho, che all'alba già sbiadisce, non te lo ricordi mai, ti risvegli. Ciò che ti sembro conta molto più di quel che so, e torni a fare cose che ti dicono chi sei.